bel bicchiere d'alcol, ma so che un fasullo sentimento sarà conseguenza dell'assenza di lucidità. Lucidità, oh, ah. Lascio da parte la volontà di stare qua nella realtà, molto più divertente ed interessante diventa, si trasforma come per magia tutto quello che vedo, pur sapendo che oramai son bugie, ciò che vedo a nulla credo più, ciò che vedo a nulla credo. La mia confusione sale, inebriante consapevolezza che ben poco vale. Ora che non posso più rispondere, ora che non posso più distinguere, vorrei solo porre un limite. Nella realtà molto più divertente e interessante diventa, si trasforma come per magia tutto quello che vedo, pur sapendo che oramai son bugie, ciò che vedo a nulla credo, ciò che vedo a nulla credo. Che ben poco vale, ora che non posso più rispondere, ora che non posso più distinguere, vorrei solo porre un limite, limite qui, limite. Consapevolezza.